Benvenuti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sta iniziando Tracce di Cinema, sono le 15:01. Oggi un film molto famoso, molto bello, del 1972, un film di Werner Herzog, Aguirre, Furore di Dio, un film complesso, che è un po' una metafora e un simbolo, ma molto spesso, come capita ai simboli e alle metafore, non si riesce bene a coglierne l'interpretazione e non ha forse, e questo forse era proprio l'obiettivo del regista, quello di non darne, di non voler dare un'interpretazione certa. È un film che non abbiamo scelto noi, ma che ha scelto il nostro ospite. Sono emozionatissima nel presentarlo. È qui al telefono già con noi, anche lui ha curato diverse colonne sonore per il cinema italiano, che ascolteremo, di cui ascolteremo alcune tracce. Benvenuto Massimo Zamboni, ciao. Eccomi, ciao, grazie a voi per l'ospitalità. Come va, tutto bene? Sì, abbastanza bene, nonostante il periodo truce per la maggior parte degli esseri umani, sì. Diciamo che va abbastanza bene. Allora, c'era venuta l'idea di questa tua presenza qui alla nostra trasmissione. Ti ho proposto quest'idea della possibilità di scegliere un film, un regista, una colonna sonora. Tu sparato hai detto Aguirre, Furore di Dio e i Popol Vuh, perché c'è stata una sorta di fascinazione e poi ha influito tanto poi su quelle che sono state le tue scelte musicali, non solo per il cinema. Allora Massimo, ci racconti un po' di quest'amore? Beh, naturalmente non è un giudizio obiettivo, nel senso che io non sono un esperto di cinema e di colonne sonore, vado semplicemente a braccio, a istinto e a passione. Mi ricordo perfettamente il momento in cui ho visto Aguirre, Furore di Dio, avevo 16 o 17 anni, il film era uscito da un paio d'anni, e mi ricordo di essere uscito dalla sala cinematografica stordito, sbalordito, e la cosa che mi colpiva ancora di più è che tutto quello che vedeva all'uscita, quindi la città consueta, i viali, le macchine, le persone, avevano assunto il carattere del film, il senso del destino così opprimente che pian piano ti porta verso lo sfacelo, scompaiono tutti, rimane solo la figura principale, Aguirre, e questo un naufragio dell'anima, no? E questo è un modo di intendere il cinema e di presentare le sensazioni che credo mi assomiglia molto alla musica che poi dopo ho cominciato a produrre con il CCP, con i CSI, con le mie cose soliste. È un senso che mi appartiene veramente. E Aguirre è un film fortissimo, come forte il suo protagonista, che tante volte mi è sembrato un personaggio shakespeariano, anche qualcosa che sta tra Riccardo III per la ferocia, per la determinazione, oppure King Lear, anche perché è proprio un gigante che decade, un pezzo di natura che rovina, così lo presenta Shakespeare, no? Sì. Nella sua essere così monumentale, poi lo vedi di come la natura pian piano si impadronisce di questa persona enorme e lo rende schiavo e lo sbeffeggia alla fine, quando lui da solo sulla zattera, sono morti tutti, viene sbeffeggiato da questo branco di scimmie che gli si infila dappertutto e lo rimette al suo posto. Mm-hmm. E questo essere rimessi al proprio posto dalla forza della natura, così con irrisione, non con violenza, mi ha colpito veramente tanto. E tanti sono gli elementi che ne fanno un film speciale, dalla interpretazione furiosa di Klaus Kinski alle musiche dei Popol Vuh e alle anche condizioni estreme in cui si ritrovò a girare Werner Herzog, che è sempre stato solito alle sfide estreme per realizzare i suoi lavori. Sì, è corposissimo. Sì, non è mai credo compiuto un film facile, così come lo si intende, no? Non credo che il suo problema sia la sceneggiatura o la sinossi o parole di questo tipo, molto più spesso la sopravvivenza rispetto ai luoghi in cui infila se stesso e tutta la sua troupe, gli attori, eccetera, eccetera. Non ultimo, Aguirre segue queste logiche. È un film difficilissimo, durissimo da svolgere, ci sono momenti di naufragio della zattera lungo il fiume, ci sono inconvenienti di ogni tipo, su questa natura che opprime le persone, durissime da combattere. E c'è la musica di Popol Vuh che dal mio punto di vista è perfetta, meravigliosa per descrivere questo, perché dà proprio il senso di questa nebbia che si mangia tutto quanto, di queste colonne di soldati che cercano di invadere un continente sconosciuto, come se noi andassimo su Marte, su Venere, su Saturno, senza saperne niente, e devono camminare nella giungla, ogni tanto qualcuno scompare. E queste tastiere e chitarre incessanti si mangiano tutto. Sì, mi piace molto questo modo. Ed è corposissima l'aneddotica che riguarda questo film, Massimo. Non so se ne sai qualcosa, ma insomma poi ne chiacchieriamo un po'. Non solo riguarda proprio i guai che hanno passato proprio nel girarlo, durante le riprese, insomma la troupe riversava in condizioni abbastanza estreme, erano mi pare solo in 8, e poi l'impegno finanziario che gravava anche insomma sul film, che ai tempi insomma costò pochissimo insomma rispetto a quanto poteva costare una pellicola di questo genere, e poi agli episodi assurdi che riguardano Klaus Kinski e la sua rabbia e il suo furore, non solo quello proprio del personaggio ma proprio quello che era proprio del suo carattere, il suo daimon. Questo è bellissimo, quando Kinski entra in scena per la prima volta, l'ho letto nel libro che ha scritto Herzog su tutti i suoi film, entra in scena quasi come se fosse un gamberno girando le spalle alla camera, e poi entra in scena di colpo, è già veramente un gigante maligno solo in quel momento lì, basta solo quel piccolo movimento lì, e questo è il cinema insomma, per farti capire che cos'è, che cosa vuole, come è fatto, che cosa cerca. Proprio da un dettaglio capisci immediatamente tutto. Sì. E poi insomma ha in sé la sintesi un po' questo film di tutta la cinematografia di tutti i lavori di Herzog, no? Che ha come obiettivo quello di sottolineare, di raccontare le persone, ma soprattutto le persone che i perdenti, insomma, quelle che vedono i loro sogni infranti in qualche modo e sono fallimentari, perché insomma a lui interessa più questo che altro, gli interessa più raccontare la parte degli eroi che sono contro che quelli che poi invece in realtà vincono, insomma poi si trovano poco in mano, perché la gloria poi alla fine è poca roba in confronto a quello che invece è il sudore e sangue che si possono versare per un obiettivo e per un ideale. Ma questo è molto tedesco, no? Anche come cultura, anche diciamo il senso del destino che accompagna sempre le musiche di Popol Vuh, ad esempio, che sovrasta tutto, e credo che sia molto difficile esprimere per un italiano questo stesso movimento di animo, perché è proprio una cultura che è profonda in un popolo o in un altro. A me piace molto avvicinarmi a questo, mi sembra veramente una cifra alla quale vorrei assomigliare molto. Allora, io direi che passiamo all'ascolto di alcune tracce che abbiamo tratto dal film. Si tratta di Aguirre 2, Morgengruß, Vergegenwärtigung, che è divisa in tre parti, la prima e la terza ascolteremo, e poi magari ci rimettiamo in collegamento con te per parlare e per aprire anche la seconda parte della trasmissione dedicata insomma alla tua esperienza musicale e alle musiche che hai realizzato per i film, d'accordo? Molto volentieri, va bene. Aspetto qua. Allora Massimo, buon ascolto se sarai con noi, e ci mettiamo in collegamento con te tra una ventina di minuti. Certo, benissimo, a dopo. A dopo. Popol Vuh dalla colonna sonora di Aguirre, Furore di Dio, un lungo coro femminile che poi lascia il posto ad una chitarra, Ottavia. Sì, sì, ridiamo il numero di telefono della radio, che provvisoriamente è un altro rispetto al solito, 0644691102 per chi volesse comunicare con la radio. Saluto Ludovica che è all'ascolto e mi ha fatto sapere che c'è, quindi un bacio. E parliamo un po' dei Popol Vuh, nati nel 1969 da un progetto di Florian Frick, ex critico e regista cinematografico. Sono una delle band fondamentali del rock tedesco, sono stati la prima band a utilizzare il sintetizzatore Moog e uno dei primi gruppi a ricercare contaminazioni con la world music degli anni 90, esplosa poi grazie anche a Peter Gabriel. Quando Florian Frick decide di dedicarsi a tempo pieno alla musica, varando al progetto, il progetto Popol Vuh, probabilmente Fede aveva riletto, letto e riletto il libro sacro dei Quiché, una tribù di indiani che sono diretti discendenti dei Maya, e in esso il leader della band di Monaco poteva confrontarsi con la credenza secondo la quale suoni particolarmente dinamici, potenti e penetranti possono avere un effetto benefico sulla psiche umana, restituendole armonia ed equilibrio. Sulla base di queste congetture, quella della band tedesca diverrà di fatto una musica sacra dalle fortissime inclinazioni terapeutiche. Il nome dei Popol Vuh è quello del libro dei morti degli antichi Maya. E l'album d'esordio dei Popol Vuh era Affenstunde o Stunde del 1970, che però non ebbe, passò insomma quasi inosservato, mentre invece Osianna Mantra del 1962 è considerato il loro capolavoro. Frick ha collaborato spesso con il regista Werner Herzog, che ha curato la regia del film che stiamo di cui stiamo parlando oggi, Aguirre, Furore di Dio, di cui stiamo ascoltando la colonna sonora. E oltre a questo ha collaborato per Wrath of God, Fitzcarraldo e Nosferatu. Per chiudere la parentesi su i Popol Vuh, mi hanno impressionato per la colonna sonora di Nosferatu, li ricordo proprio per questo. Ce l'hai nel cellulare? No. E vabbè, insomma, per chiudere questa parentesi su questo gruppo, magari ce ne parlerà poi dopo il nostro fantastico ospite Massimo Zamboni. Frick è morto il 29 dicembre 2001 e proprio come è scritto nel libro De Maya, cito questa frase che secondo me è proprio anche della musica di Frick: all'inizio vi era solo il cielo immenso e il mare in tutta la sua calma, e poi venne il suono, e dopo il suono il creatore formò l'uomo. Un altro pezzo a due chitarre, Morgan Grues dei Popol Vuh. Beh, è questo film, Aguirre Furore di Dio, è il quinto film del regista Werner Herzog. Venne girato con mezzi poverissimi, in situazioni a dir poco scomode, nella foresta peruviana. Costò ai tempi $370,000, praticamente niente, dei quali un terzo era la paga di Kinski. Tra l'altro il Perù è coproduttore insieme a Messico e Germania. Ecco, e tra i due, tra il regista e il protagonista, l'attore feticcio di Herzog, Kinski, nacquero violenti litigi che vennero raccontati proprio da loro stessi. E addirittura il regista arrivò a minacciare di uccidere Kinski e se stesso quando... Allora t'ammazza te, poi m'ammazzo io. Beh, ma erano tipici questi furiosi litigi tra loro due in diversi altri film. Certo, quando l'attore espresse la volontà di abbandonare la lavorazione del film. La troupe, come dicevo prima, raccontando anche a Massimo Zamboni, era formata da sole 8 persone che man mano scapparono. No, scherzando, no, resistettero fino alla fine. E una delle tante curiosità che insomma riguardano questo film è che la macchina da presa usata da Herzog fu rubata da lui stesso alla scuola di cinema di Monaco. E con questa chiudiamo la parentesi. Ce l'abbiamo solo tre di Popol Vuh. Vergegen Vartigung, la prima parte di questa lunga traccia divisa in tre parti, da Popol Vuh, dalla colonna sonora del film Aguirre, Furore di Dio. Ottavia, ci siamo? Avevi alcune notizie? Sì, altre curiosità sul film, riguardano le riprese e i luoghi. Le riprese durarono 5 settimane tra il gennaio e il febbraio del 1972, ebbero luogo, come ho già detto, in Perù, nella foresta amazzonica della regione Ucayali, sui fiumi Wallaga e Nanai, affluenti del rio dell'Amazzoni. La navigazione avvenne su zattere costruite dai nativi e anche in parte da Herzog. Il film fu girato in ordine cronologico perché Herzog voleva che la maturazione del cast e della troupe lungo il viaggio riflettesse quella dei personaggi, e stando a quello che Herzog ha scritto nel libro La conquista dell'inutile, dopo essere arrivato sul set con mucchi di attrezzatura da montagna, perché non era rassegnata l'idea che la scena iniziale sul ghiacciaio era stata eliminata, Klaus Kinski dichiarò di essere pronto a immergersi nella natura e che niente lo avrebbe scoraggiato. Però dopo la prima notte di piogge iniziarono queste proverbiali sbroccate reciproche, no, soprattutto, soprattutto sue. E Herzog allora fece costruire un tetto di foglie di palma sopra la sua tenda, ma anche così non fu sufficiente per l'attore che si trasferì furibondo all'hotel Machu Picchu, che all'epoca aveva solo 8 stanze, dove notte dopo notte, colto dagli attacchi di ira, si sfogava sovente sulla povera moglie vietnamita, trascinandola per i capelli e sbattendola contro le pareti. Herzog scrive che dovettero corrompere il direttore dell'albergo per impedire che Kinski fosse cacciato, e che il produttore Walter Sachs si occupava di pulire il sangue della stanza. Che vabbè, insomma, anche, c'è anche dell'orrore oscuro, sì, inquietante. Allora, abbiamo di nuovo Massimo in collegamento telefonico, ci sei? Sì, ah, eccoci. Massimo, passiamo ora alla seconda parte della trasmissione dedicata alla tua di musica. Io, anche per chi ci ascolta, ti chiederei brevemente anche di sintetizzare per quanto possibile la tua lunga esperienza dai CCCP fino alle avventure da solo. Ma guarda, non è così facile dire la verità, però stringendo poi verso le colonne sonore, da questo punto di vista io ho cominciato a comporre colonne sonore effettivamente terminata la storia con i CSI, okay. Ma mi rendo conto che tutto il periodo precedente, lungo quasi di 20 anni, è stata una buona preparazione, perché sia i CCCP che i CSI hanno sempre avuto nelle corde le immagini più che la finalità musicale, nel senso che a me sembra che noi abbiamo sempre composto musica molto evocativa, molto per immagini. Sì. Se chiudo gli occhi ascoltando CCCP o CSI, cioè, ci sono delle immagini, quelle che escono, vengo portato in mondi che è facile figurare. È vero, è vero. E quindi, cioè, specialmente con CSI, ma anche CCCP, a dire la verità. E quindi questo patrimonio me l'ero portato dietro ben saldo, diciamo. Tra l'altro, adesso mi è venuto un flash, perché ci siamo occupati anche di un film, Paz, nella trasmissione, e lì c'era una versione di Io sto bene degli Us Mamò. Sì, è fatta da Us Mamò e fatta da Ferretti. E Ferretti insieme. Il film di De Maria me lo ricordo. Sì, sì. Però sai, un conto è mettere una canzone, no? Anche come c'è, se io avevamo messo una canzone in Tutti giù per terra di Davide, sì, Ferrario. Esatto. L'altro conto invece è proprio musicare un film, sì. Perché la canzone è sempre importantissima, ovviamente, e di solito diventa una title track, ma portare le immagini del film, integrarsi con gli attori, la recitazione, la scenografia, la fotografia, l'ambiente e tutto il resto, è un tipo di complessità diversa, né superiore né inferiore, ma decisamente diversa. Oh. Io non amo molti commenti, a dire la verità, quando ascolto le colonne sonore. Capita tante volte di sentire orchestre che commentano i movimenti dei personaggi, questo accadeva di più, diciamo, in tutto il cinema in bianco e nero. Mm-hmm, sì. La trovo un po' pesante questa cosa, molto ridondante. Noi amo molto gli spazi vuoti, mi piace far musica quando la musica si accontenta di una parte dello spettro sonore, lascia molto spazio anche al silenzio, all'immaginazione, diciamo. Quindi mi rendo conto di non aver mai cercato di riempire troppo tutto il campo. C'è anche una, adesso mentre dicevi questa cosa mi è venuto in mente, anche esiste una, un nuovo, tra parentesi e tra virgolette, modo di unire musica e film, ad esempio con i film muti che vengono musicati dal vivo. Questo succede anche in alcuni festival, un paio di festival in Italia che si occupano di cinema restaurato, le cui immagini vengono musicate da orchestre dal vivo mentre vengono proiettati. Ma questo è bello, questo è capitato sì, anche a me un paio sì. di volte con il fantasma del palcoscenico dell'opera insieme a una parte di CSI con sì. un altro breve filmato surrealista, scusa, sulla box. È bello perché questi filmati sono nati per delle musiche o per dei silenzi molto diversi dai nostri, sì. addirittura gli strumenti con cui li musichiamo adesso queste immagini non esistevano, sono sonorità che non esistevano proprio, al massimo certo. era un pianoforte certo. e quindi c'è proprio un'altra vita nuova rispetto a queste pellicole. Senti, in queste tue escursioni nel cinema ti sei basato sulle immagini, hai composto prima, come è stato il rapporto con i registi? Ma diciamo che ogni regista lavora a modo suo, naturalmente ogni film richiede qualcosa di diverso, per cui mi è capitato di fare tutte queste cose. A volte arriva la sceneggiatura e ti basi su quella per costituire in maniera pregiudiziale assolutamente prima delle immagini sì. una colonna sonora, e non è così difficile come potrebbe sembrare, anzi delle volte è anche più facile se equilibrio in questo. Altre volte invece il film è terminato e ti chiedono di musicarlo sì. Altre volte terribili, qualcuno ha montato il film, ha usato come musica d'appoggio The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e ti chiedono vorrei qualcosa del genere. Mi è capitato anche con Walk on the Wild Side di Lou Reed, ma una canzone così non l'avresti, no. Magari. Questo per dire che insomma sì, c'è veramente sì. tante modalità di lavoro sì. A me piace molto anche lavorare prima delle immagini, cioè in modo da potermele figurare sì. io in precedenza sì, sì, sì. Ed è il momento migliore decisamente quando passi dall'immagine muta, applichi la musica e vedi il mondo che fiorisce, perché la musica ha questo potere, quella di trasportarti immediatamente in quel luogo che altrimenti rimane sempre un po' distante, no? Sì. C'è uno spazio anche così avvertibile tra noi e la pellicola, la musica è in grado di riempirlo immediatamente. Questo di solito è un momento molto emozionante, molto bello. Sì. Senti Massimo, un sodalizio per te, insomma, più che altro maschile, quello nei CCCP con Giovanni Lindo Ferretti, e poi dopo la vostra insomma separazione, se così si può dire, hai collaborato con tantissime artiste donne, tra cui anche Nada, con la quale che ha cantato un brano scritto da te per la colonna sonora, mi pare, di Benzina. Il mio paese, di Vicari, e poi ancora con Angela Baraldi, beh insomma tante voci femminili, insomma hanno tante voci femminili. Anche Angela Baraldi ad esempio è stata una conoscenza grazie a una colonna sonora. Avevo costruito una canzone per un documentario di Andrea Adriatico sull'AIDS e quando gli ho presentato la canzone lui mi ha detto ma secondo me la cantante ideale sarebbe Angela Baraldi e quindi lì ci siamo conosciuti e poi anche frequentati per tutti questi anni, sono già 5-6 anni ormai. Sì sì, io sono una sua. Mi piace molto anche questo passare continuamente dal cinema che è il luogo della finzione al CD, allo spettacolo dal vivo, anche rimescolando continuamente le carte. Tante colonne sonore che non avevano parole sono poi diventate canzoni anche anni dopo, sono finite in concerto. Mm-hmm. Sì, e poi insomma voci femminili, io sono una grande fan sia di Angela Baraldi che di Nada, voci femminili che sono poi anche molto cinematografiche, no? Sono molto cinematografiche, tutti e due hanno delle corde, sono femminili ma hanno delle corde molto maschili, delle corde vocali molto maschili, e sono voci capaci di interpretare drammaturgicamente, non solo dal punto di vista del cantato. Mm-hmm. Il che non è una cosa che a me piace molto, amo molto l'idea della tragedia, del dramma, del destino che incombe sia Angela che Nad sono interpreti eccellenti da questo punto di vista. Eh sì, non è una cosa totalmente scontata quella di riuscire ad avere una vocalità che poi interpreta anche profondamente, no? Per niente. In Italia tra l'altro non c'è molto questa abitudine. Direi che la maggior parte, ho faticato molto a incrociarmi con queste voci a capire che potevano essere loro, perché in Italia non c'è questa attitudine, tantomeno nel canto femminile. Si tende, basta guardare i programmi televisivi in cui si canta, quello che si canta è tutt'altro, sì. Dipinge altri mondi di colori decisamente molto diversi da quelli che piacciono a me. Sì, sì. E senti Massimo, ho cercato tantissimo la traccia, quella con Nada, cantata da Nada e scritta da te per... Non la trovi? Non l'ho trovata. Perché ce l'ho chiusa io in un cassetto in attesa di sdoganarla per una bella occasione, perché è una, a me sembra una canzone bellissima. Ce la potevi sdoganare in questa occasione, scusa. arriverà. Comunque era dedicata al nostro paese. È una canzone, sì, molto forte secondo me. Quindi... Ma è lì, non ha fretta, tanto i guai nel nostro paese non finiranno mai. Senti, ma Massimo, ma quindi è un inedito praticamente? Sì, infatti tra le musiche che ci hai mandato riguardano tutte un solo film, tranne Santa Maria Elettrica che viene da Benzina, perché come mi dicevi il resto non sono edite. Sì, perché tante volte non vale la pena di pubblicarle così solo per lo sfizio, sì, di vedere il proprio nome su un CD. Sì. Deve avere un senso, insomma, deve essere un film che esce bene. Come è stato per l'orizzonte degli eventi, e delle volte è meglio aspettare. Ad esempio la prima colonna sonora importante che ho fatto, che è stata Velocità Massima per Vicari, non è mai uscita su CD, ma quelle canzoni sono state nell'ombra per quelle musiche sono state nell'ombra 3 o 4 anni prima di diventare le canzoni su cui ho costruito il mio primo CD da solista, cioè Sorella Sconfitta. Perché ogni musica poi ha la sua personalità, quindi se ne va anche indipendentemente dall'autore a cercare casa dove è meglio che crede. Certo. Senti Massimo, io abbiamo ancora pochissimo tempo, quindi continuerei un po' con le tue musiche e ci risentiamo fra un po'. Volentierissimo, io sono qua. Che dici Fede? Sei d'accordo? Sì, eh? Sì, allora cominciamo con l'orizzonte degli eventi, la prima è proprio eventi, ci sentiamo fra un po' allora. Sono qua. Ciao Massimo. A dopo. Questa è Eventi, la traccia Eventi. Sarà dagli orizzonti degli eventi, non ne siamo sicuri. Poi Massimo, sei in linea? No, ancora? Non no, lì. Non c'è. Insomma, io credo invece, Fede, che sia proprio dal titolo della traccia, mi evoca proprio il film L'Orizzonte degli Eventi, anno 2005, regia di Daniele Vicari, presentata alla Settimana Internazionale della Critica del 58esimo Festival di Cannes. Il titolo dell'opera si ispira ad un concetto fisico e nel manifesto, insomma, nella locandina del film c'è questa bellissima frase che spiega che cos'è l'orizzonte degli eventi: è la superficie a senso unico di un buco nero. Dopo averla oltrepassata, le leggi della gravità stabiliscono che è impossibile tornare indietro. Questo è il secondo film di Daniele Vicari, che era già regista di Velocità Massima, e continuiamo con la musica. Glory be to God for all the double things, for skies of couple color, as a brindled cow, for rose moles all that prick, Ancora dall'orizzonte degli eventi, Pied Beauty con una bellissima voce femminile, bel pezzo, sì, bellissimo, sempre dall'orizzonte degli eventi, regia di Daniele Vicari, la colonna sonora è stata curata da Massimo Zamboni, chitarrista storico dei CCCP, oggi a piede libero, autore di colonne sonore di tantissimi film. Stavo guardando Benzina, Velocità Massima, Onde, L'Orizzonte degli Eventi, Terapia d'Urto, una quantità notevole di documentari corti, anche ha curato diverse colonne sonore anche per il teatro, un artista prolifico e come ce ne sono pochi nel nostro paese, bravo come ce ne sono pochi nel nostro paese. E continuiamo con un altro brano, sì, di stacchiamo Massimo. Stavolta perché stavolta dal film Benzina, quindi ci allontaniamo dall'orizzonte degli eventi e poi speriamo anche di fare di nuovo un collegamento con lui. E siete sempre all'ascolto di Tracce di Cinema, questa era una traccia dal film Benzina, colonna sonora curata da Massimo Zamboni, film diretto da Monica Stambrini nel 2001, tratto da... Io il film non l'ho visto, tu l'hai visto? No. Ho letto il libro però che era bello, di Elena Stancanelli, l'hai letto? Neanche il libro? No. Vabbè, sei totalmente impreparato allora. Sì. E siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione, non so se c'è tempo per un saluto a Massimo. Fede, lo vogliamo provare a richiamare? E dai, riproviamo a chiamarlo. E intanto ci sentiamo un'altra traccia, che dici? Facciamo mettiamo Particelle? Particelle. Allora Massimo, che sei tornato in linea per i saluti, ci siamo mossi un po' tra l'orizzonte degli eventi e benzina, abbiamo sentito eventi, Pied Beauty, con ho scoperto poi con Fiamma, che è un artista che mi piace. Sì, ha una bellissima voce. Sì, è una bellissima voce. E poi siamo passati a benzina con Santa Maria Elettrica e adesso abbiamo... in chiusura ho sentito Particelle. Stavamo vedendo anche tra i tuoi lavori anche qualcosa in teatro, diversi corti sperimentali e molti documentari. Molti, sì, sempre di più, perché poi diciamo che i film di finzione alla fine non mi piacciono sostanzialmente. Faccio molta fatica a pensare di, a parte che le opportunità sono veramente scarsissime, invisibili in Italia, c'è proprio giusto una manciata di film all'anno, ma il documentario è molto più profondo, molto più sentito, delle volte, la maggior parte delle volte è proprio una passione del regista che causa un documentario. E si permette una libertà di pensiero, di azione e di soggetto infinitamente superiore al cinema, che particolarmente in Italia ti obbliga a delle catene che sono insopportabili. Nessuno mai potrebbe neanche pensare di fare un film come Aguirre di Dio, di cui abbiamo parlato, Aguirre Furore di Dio, di cui abbiamo parlato prima, perché il cinema ha abbandonato questa, la facoltà del sogno, diciamo, o dell'incubo, si accontenta di passioni molto più terrene, molto da appartamento. Io questo non lo posso non lo posso musicare. Senti Massimo, visto che siamo ai saluti, stai lavorando su qualcosa? Sto lavorando su dei libri in questo momento, tanto per contraddire quello che abbiamo detto fino adesso, perché Adesso arriveranno, stanno arrivando 2 o 3 colonne sonore che sono in preparazione, però è un buon momento per scrivere e quindi sto terminando un libro che uscirà poi quest'altro anno. Bene. E noi non vediamo l'ora di leggerlo. Anch'io non vedo l'ora di finirlo. Senti, poi se sarai di passaggio a Roma magari riusciamo pure a organizzare qualcosa per la radio, chissà. Ci proviamo volentieri, io adesso per un po' non mi muovo dall'Appennino, ma poi dopo... Ma noi ti veniamo anche a prendere, eh? Vi aspetto. Allora... I potenti mezzi di Radio Onda Rossa, guarda, sono infiniti. Benissimo. Un abbraccio Massimo. Grazie a tutti, grazie. È stato un piacere e alla prossima. Benissimo. Grazie Massimo. Ciao. Noi ci salutiamo con... Vai, dimmi. No, mi ha interrotto. No. Era un'impressione. Sì. Perché no, c'era rimasta una sola traccia che però tu avevi detto di no. No, ma non mettiamola. La mettiamo comunque. Tanto quella toglie Attica Blues. Ci sentiamo giovedì prossimo dalle 15 alle 16. Dai le coordinate. Vai. Sottoscrivete a Radio Onda Rossa con il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via dei Volci 56001 85 Roma, oppure sottoscrivete in modo telematico tramite il sito della radio che è www.ondarossa.info. Sostieni, cliccate su sostieni e troverete tutte le indicazioni per sottoscrivere a questa radio libera e indipendente dal 1977 che vuole continuare a trasmettere libera e indipendente senza padroni e senza pubblicità. Vi salutiamo, un saluto più in particolare va a chi è privato o privata della propria libertà. A giovedì prossimo. A giovedì prossimo 15:16, indirizzo di posta elettronica visionari no tracce di cinema @ondarossa.it. Te sei svegliato pure l'altra volta. Sì. Alla prossima.